Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Da decenni si discute nel nostro paese sulla necessità di rendere più efficiente la pubblica amministrazione, che è additata da più parti come la responsabile del crescente distacco tra cittadini e istituzioni. La riforma dell'amministrazione pubblica, che è ora affidata ai decreti attuativi della cosiddetta riforma Madia, compare ai primi posti nelle stime e nelle valutazioni internazionali sul nostro paese, anche in termini di possibilità di spinta alla crescita della nostra economia, quale effetto del recupero di efficienza della macchina pubblica. Non è per la verità la prima volta che se ne discute, diversi sono stati nel corso dei decenni passati i tentativi di riformare la macchina pubblica. Parliamo ad esempio del fisco. Sia durante i lavori preparatori della riforma fiscale del 1973, quella per intenderci che ha istituito i moderni tributi dall'IRPEF all'IVA, era il 1965, uno studioso del calibro di Cesare Cosciani fotografava così lo stato di salute dell'amministrazione finanziaria, concetti poi ripresi in un successivo scritto del 1978. È inutile farsi illusioni sulla possibilità di dare la necessaria efficienza con sufficiente rapidità all'amministrazione finanziaria. Rimontare la corrente che ha portato gli uffici in tale delicata situazione è un'opera difficile, lunga, paziente e ingrata per il ministro che deve attuarla, ma è il presupposto per ogni riforma. I mali dell'amministrazione? Disagio morale nel senso più ampio della parola. Inadeguati mezzi finanziari e umani, eccessiva arretratezza delle tecniche e delle procedure di lavoro. Le due esperienze italiane di riforma tributaria del 1951-56 e del 1973-74 dimostrano in modo evidente che ogni riforma tributaria che non trova una sufficiente struttura amministrativa degli uffici o che non sia preceduta da un'adeguata riorganizzazione degli stessi non può portare al successo sperato. E ogni aggravio delle sanzioni amministrative e penali a carico degli evasori, in questa ipotesi, per correre ai ripari, si dimostra del tutto inutile, fino a quando i meccanismi amministrativi non sono in grado di funzionare. Peraltro questo del fisco è solo uno dei tasselli della più ampia riforma dell'amministrazione pubblica. Vi è un altro aspetto, non meno importante, che attiene al comportamento dei pubblici dipendenti e delle istituzioni, una sorta di galateo istituzionale. Quello di cui si occupa il libro scritto da Massimo Sgrelli, esperto di protocollo ufficiale, e per oltre 15 anni a capo del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal titolo Il Galateo istituzionale, De Felice editore. Massimo Sgrelli oggi presiede il Comitato Scientifico dell'Accademia del Cerimoniale. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, questo aspetto del protocollo, dell'educazione, della forma, come lei scrive nel suo libro, è fondamentale perché alla fine nel mondo delle istituzioni la forma è sostanza. E le sue parole sono parole sante, perché viviamo tempi piuttosto sguaiati in tanti campi, comprese, come sappiamo, quelli dell'amministrazione. C'è una scarsa attitudine a porsi in un comportamento terzo, separato dalla propria persona, purtroppo. Perché è importante che le amministrazioni pubbliche adottino dei comportamenti istituzionalmente corretti, dottor Sgrelli? Beh, questo eleva sicuramente il tasso di dignità non solo dell'amministrazione, ma dell'intero contesto sociale. E i cittadini non possono che vederlo di buon occhio. Beh, d'altro canto lei nel suo libro si diffonde particolarmente su alcuni esempi in cui dice che fondamentalmente le istituzioni devono avere un ruolo, se vogliamo, di guida, ma anche di esempio morale, etico rispetto ai cittadini. Questo è fondamentale. Sì, sicuramente. Il comportamento istituzionale è un dovere per chi esercita funzioni pubbliche, non è un optional. Deve essere preteso anche dal cittadino. Si dice che un popolo che non pretenda un comportamento istituzionale è anche un popolo corrotto, quindi è stato detto anche questo, c'è una qualche corresponsabilità da tutte e due le parti. Se dovessimo e potessimo fare una sorta appunto di vademecum, seguendo la traccia del suo libro, del buon comportamento delle istituzioni, quali sarebbero secondo lei i punti fondamentali su cui focalizzare l'attenzione? Beh, innanzitutto bisogna ricordare l'etica della responsabilità, ecco, abbandonare un po' l'etica dei principi che in questi anni è stata invocata con qualche eccesso, quindi pensare alle conseguenze della propria azione piuttosto che al riferimento alle proprie personali idealità o di parte, ecco. Eppure nel suo libro lei scrive che invece oggi sembra che l'attenzione sia più rivolta al riscontro immediato, cioè a quanto dall'opinione pubblica viene sollecitato in termini di consenso del, come dire, del giorno dopo, piuttosto che pensare a lungo periodo, no? È proprio così, se vediamo che il presidente degli Stati Uniti, Trump, continuamente si esprime sui social media, fa una cosa e poi manda un tweet. E questo è un segnale, direi, molto forte di cambiamento dei tempi. Ci dice che ormai queste autorità preferiscono parlare come persona anziché come carica. E questo certamente non è un fatto positivo, perché dimostra che danno maggiore attenzione al comunicare che al fare. E a proposito di persone e carica, c'è una curiosità che però secondo me è ben altro nel suo libro, molto importante, molto ponderoso, che riguarda i termini che si usano. Ad esempio, ormai è invalso nel linguaggio comune il termine sindaca, ministra, e lei sostiene che invece non siano istituzionalmente corretti. Ce li spiega un po' meglio? Certamente si può dire sindaca di una donna che svolge questa funzione, ministra, ma nel linguaggio giornalistico, nel linguaggio corrente, nel linguaggio anche letterario, questo lo ha detto anche l'Accademia della Crusca e senz'altro rende l'immagine più immediata, ma non si può tradurre la dizione ufficiale della carica nel linguaggio istituzionale, cioè non ci può essere un certificato anagrafico intestato alla sindaca come attualmente ad esempio capita qui a Roma oppure in altre città dove ci sono sindaci donne, perché le cariche non si coniugano. A norma di Costituzione la carica può essere ricoperta indifferentemente da un uomo o da una donna o da altri indirizzi, orientamenti sessuali, insomma senza discriminazione alcuna per nessuno. La neutralità della definizione della carica è garanzia per tutti. E tra l'altro è garanzia anche del rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, come lei segnala nel suo libro. Certamente, certamente. Dobbiamo stare attenti a questi che possono sembrare aperture di libertà e invece nascondono qualche tranello, nascondono qualche attenzione eccessiva alla persona piuttosto che alla carica. C'è una domanda che percorre il suo libro, dottor Sgrelli, ed è questa: un paese può crescere armonicamente se non c'è la certezza del rispetto delle procedure? Alle volte le procedure invece vengono considerate quasi come degli orpelli da evitare. Si è invocato spesso per saltare le regole l'eccesso di formalismi, ma le forme si dividono in forme necessarie, utili, inutili. Insomma, la gran parte delle forme istituzionali sono forme necessarie e talora indispensabili. Ecco, i formalismi da evitare sono quelli inutili, quelli che costituiscono intralcio all'andamento della buona vita amministrativa e politica. Infatti lei dice: per ricoprire cariche pubbliche e incarichi istituzionali non basta essere bravi e competenti. Per essere davvero efficaci e positivi bisogna rispettare le prassi, le procedure, i protocolli, agendo secondo architetture comportamentali consolidate e collaudate. E quindi questo è un po' il passaggio. Certamente occorrerebbe anche che in questo campo ci fosse qualche attenzione di docenza, ecco, qualcuno che insegni queste cose, perché l'insegnamento è ampiamente trascurato. Le forme sono giudicate un fatto accessorio, un fatto qualche volta addirittura inutile. E a proposito delle procedure, dottor Sgrelli, ci racconti un po', visto che lei è il padre della cerimonia del campanello a Palazzo Chigi, allora come se l'è inventata? Ma sa, era una volta il passaggio di consegne tra Presidente del Consiglio uscente e l'entrante avveniva nel ristretto dell'ufficio del Presidente, in forma, diciamo così, assolutamente anonima, ecco, il Presidente uscente piuttosto triste, il Presidente entrante preoccupato di dover poi presentarsi in Parlamento con tutte le polemiche sempre presenti in occasione di nascite di governi, insomma un'atmosfera un po' tesa che peraltro nessuno aveva modo di vedere all'esterno e nessuno aveva modo di constatare questo passaggio, questo avvenimento di questo passaggio. Allora ho pensato di creare questo momento simbolico. Il Presidente del Consiglio uscente dona il campanello della sala del Consiglio dei Ministri, quella con la quale egli dirige le riunioni del Consiglio, al Presidente del Consiglio entrante, e davanti alle televisioni, ai giornalisti, ai fotografi, in modo che questo divenisse un atto formale, ufficiale. E quindi da forma diviene sostanza. Ritorniamo al nostro discorso di partenza. Certamente. Ecco, la sostanza, quindi, è la sostanza dei comportamenti istituzionali che il dottor Sgrelli ci invita a seguire attraverso il suo libro di cui abbiamo parlato questa sera, Galateo istituzionale, De Felice editore. Dottor Sgrelli, molte grazie per essere stato con noi e le auguriamo una buona serata. Grazie a lei, a buon lavoro e saluti a tutti gli ascoltatori.